Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo del tema della scienza, dei rapporti con la vita di tutti noi, con la nostra ignoranza, con i nostri pregiudizi e con la politica. Lo facciamo con una scienziata che si trova oggi in una posizione del tutto particolare, cioè Elena Cattaneo, che è una farmacologa, biologa, studiosa nota a livello internazionale di malattie neurologiche, che per tutti questi meriti è stata nominata il 30 agosto del 2013 senatrice a vita dal presidente Giorgio Napolitano. Elena Cattaneo ha preso molto sul serio il suo nuovo impegno al Senato, dove vuole portare la voce della scienza per demolire molti pregiudizi e per favorire l'assunzione di scelte politiche responsabili e soprattutto basate su informazioni documentate. Per questo ha organizzato un agguerrito gruppo di lavoro che la chiama l'Office, che prepara dossier di informazioni e documentazioni, e adesso affida questa esperienza a un libro intitolato Ogni giorno tra scienza e politica. È pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 19,50 €. La Cattaneo non vuole fare battaglie di carattere politiche dettate dall'appartenenza a questo o a quel partito, ma vuole cercare il dialogo con tutti i parlamentari, con l'intento di mettersi, la cito, senza distinzioni politiche, a disposizione di chiunque voglia, come lei, verificare fatti e condizioni nelle discussioni sulle materie scientifiche, medico-sanitarie o dell'istruzione e della ricerca. Non è un'impresa facile, naturalmente, vista la distanza che esiste con la cultura scientifica, particolarmente accentuata nel mondo della politica. E Cattaneo qui racconta alcune sue battaglie, sulle quali si è dovuta spesso scontrare appunto con i pregiudizi e con i luoghi comuni, talora privi di alcuna evidenza, ma ai quali anche molti suoi colleghi parlamentari sono molti sensibili. E allora facciamoci raccontare dalla interessata questa esperienza. Buonasera a Elena Cattaneo. Buonasera. Elena Cattaneo, lei nel suo libro ci ricorda quelli che sono i postulati e le regole dell'indagine scientifica basata sui dati e sulla loro verifica empirica. È così difficile applicare e seguire questo metodo in politica? Ma in genere lo si segue poco, anche perché la politica ha bisogno di consensi immediati. Seguire invece il metodo scientifico, insomma, impone indagine, approfondimenti, verifica dei fatti, conferma da parte di altri, quindi insomma c'è un po' di difficoltà, però insomma restiamo speranzosi. Ecco, lei, a proposito di questo rapporto tra scienza e politica sul quale verte poi principalmente il suo libro, affronta un tema che ho trovato praticamente interessante, cioè il fatto che la scienza giochi, la cito, un ruolo strumentale nel riconciliare le istanze individuali di libertà e la necessità sociale di ordine, quindi la scienza che svolge un ruolo importante per tenere a bada in qualche modo la politica. Ma io direi forse per tenere a bada, insomma, tutti gli slanci, non so, diciamo a volte irrazionali o personalistici o gli egoismi, perché in fondo se pensiamo alla scienza proprio come disciplina in quanto tale, insomma ti obbliga a restare legato ai fatti e non puoi piegare i fatti e non puoi piegarli alla tua convenienza. Ecco, quindi la scienza che non piega i fatti alla convenienza di nessuno, né di un governo di destra né di un governo di sinistra, ma anzi che è una risorsa per i cittadini, ecco, questa è forse la tipologia di scienza che potrebbe essere utile anche appunto in un dibattito parlamentare, proprio appunto per questa sua modalità di discutere le informazioni in base alla loro attendibilità alle condizioni date. Però lei sostiene e sottolinea come molto spesso da parte della politica nei confronti della scienza vi sia diffidenza, addirittura a un certo punto lei parla di irrisione verso gli esperti e le elite e soprattutto le elite scientifiche. Come mai questo sentimento? Come mai è così difficile questo rapporto? Una prima considerazione che sembra appunto in questo momento che in generale ci sia una diffidenza verso le competenze, no? Quindi che siano quelle della scienza o quelle istituzionali, no? Quindi c'è una tendenza alla ribellione, insomma ognuno si vuol fare la propria realtà, insomma, che può essere veramente pericoloso. Lei dice giustamente, anche io lo scrivo nel libro, diffidenza da parte della politica verso la scienza, mi viene da dire, l'ho scritto nel libro, è reciproca, anche la scienza in fondo diffida, se ci pensiamo, della politica, insomma. Diciamo che in entrambi, che tutti e due si sta facendo insieme un grande danno al cittadino. La politica diffida della scienza perché gli conviene, pensiamo a tanti argomenti, pensiamo all'argomento OGM che è tratto in un capitolo, Quello per me è l'emblema proprio, a parte dell'ipocrisia, ma anche di quel che si perde. Perché alla politica conviene su questo tema diffidare o fingere che i fatti a favore dell'impiego delle piante OGM non esistano? Beh, perché se ignora questi fatti ovviamente può piegare l'argomento ancora una volta come vuole, no? Quindi se invece di informare i cittadini e di spiegare loro, no, che queste piante, che gli OGM non sono pericolosi, sono per la salute o l'ambiente, eccetera, invece di spiegare queste cose ovviamente sostiene la posizione opposta, è una posizione ovviamente che può raccogliere, insomma, i consensi più facilmente, no? Con l'idea appunto che la scienza manipoli la natura, Insomma è una diffidenza che in tante occasioni, non voglio dire sempre, ma in tante occasioni è opportunistica. Perché conviene fare così, perché affrontare la realtà dei dati, quelli che la scienza offre oggi, che di nuovo è una verità tra virgolette, che ogni giorno si aggiorna e migliora, no? È la verità che abbiamo meglio disponibile oggi, affrontare questa verità e metterla e incorporarla nelle maglie legislative significa per la politica forse cambiare posizione. E non sempre può essere pronta, o quasi mai. A proposito degli OGM, lei nota in questo capitolo dedicato appunto a questo tema che molte posizioni degli OGM in realtà poi diano vita a dei paradossi incredibili. Parla addirittura dell'Italia come regno dei paradossi. Ce ne vuole ricordare qualcuno? È una storia che mi ha colpito tantissimo. Un paradosso, per esempio, è che noi non possiamo coltivare OGM. Quindi da un punto di vista commerciale gli agricoltori con le loro imprese agricole nei loro spazi di libertà che la Costituzione gli garantisce non possono coltivare nemmeno quell'unica pianta OGM, il mais, autorizzata dall'Europa perché è vietato per legge. Ciò nonostante noi importiamo quel stesso OGM, lo importiamo a tonnellate e sono quindi miliardi di euro che vanno alle aziende agricole degli altri paesi. Quindi ecco, non coltiviamo ma importiamo. E poi l'altro paradosso legato a questo è che non ci viene nemmeno permesso di studiarli come ricerca pubblica, cioè noi non possiamo studiare quei miglioramenti genetici, quindi quella possibilità di agire su una singola lettera del DNA della pianta, noi non possiamo nemmeno studiarli, ma proprio studiarli come ricerca pubblica in campo aperto ci viene impedito, quindi non possiamo studiarli, ma li mangiamo indirettamente, entrano in ovviamente in tutti i nostri allevamenti, sono nutriti con semi OGM. E poi insomma tutto questo finisce ovviamente nei nostri buonissimi prodotti DOC, prosciutti, formaggi che esportiamo con grande orgoglio, quindi è veramente il regno dell'ipocrisia. Ma attenzione che limitare persino, quindi si limita la libertà di impresa, si limita la libertà di studiare e conoscere, è un fatto grave. Un altro tema molto attuale sul quale lei interviene e che ci interessa molto qui a Milano è quello del centro Human Technopole, il grande centro di innovazione, di studio, di ricerca che dovrebbe sorgere nell'area dell'ex Expo. Qui lei fa un paio di affermazioni impegnative. La prima, per esempio, il governo ha l'impressione che intende ridurre gli spazi di libertà della ricerca pubblica proprio attraverso questo progetto e poi aggiunge di una mancanza di dialogo con la comunità scientifica su una simile decisione. Le ultime decisioni le hanno fatto cambiare un po' idea? Ma io ho detto che bisogna riconoscere al governo che c'è stato un cambio di rotta, quindi questo sottolinea ancora di più che le critiche che avevo fatto non solo io, ovviamente anche altri autorevoli parlamentari erano fondate, ma attenzione che è una nave varata capovolta, perché proprio non si fa così. Quindi questo rientra nel discorso di prima, quindi di come la politica interviene in fondo goffamente, no? Per ridurre non solo gli spazi di libertà ma anche per ridurre i possibili vantaggi per i cittadini, perché nel momento in cui la politica, giustamente, governo, parlamento, decidono di creare un nuovo centro di ricerca, eccetera, questo è compito della politica farlo, no? Decidere di puntare su quell'obiettivo, decidere di puntare alla nutrizione o alle scienze della vita, Basta, poi questo è, la politica si deve ritirare e deve lasciare il campo al confronto aperto, libero e competitivo tra tutte le idee disponibili al mondo, in Italia e al mondo, quindi non può la politica decidere con i soldi dei cittadini, quindi con i soldi di tutti noi, il progetto, l'idea me la fai tu, no? Ti do a te i soldi, quindi questo per me è assolutamente inaccettabile, anche perché ovviamente significa privare il cittadino della possibilità di avere in campo un'idea migliore di quella che ha scelto la politica. Cioè la politica non può scegliere le idee, no, non è assolutamente il suo obiettivo, non è assolutamente il suo campo. E da sempre nel mondo, nell'innovazione, in conoscenza, si investe così, campo aperto per tutti. E chi è il più bravo, il metodo scientifico dice, se sei il più bravo dimostramelo attraverso una competizione libera e aperte a tutti, quindi non vai per via politica se sei il più bravo, ma vai per via competitiva. Ecco, io dico, questo oltretutto non è assolutamente un metodo etico di erogazione dei fondi pubblici, io lo chiamo un metodo eretico amicale, eretico perché confligge col metodo scientifico e perché corrode il metodo scientifico. Amicale perché a me sembra che appunto queste assegnazioni mi ricordano appunto le assegnazioni agli amici degli amici, quindi non si fa proprio così. Grazie a Elena Cattaneo, autrice di Ogni Giorno. Buona serata. Uno dei temi sui quali pure interviene Cattaneo nel suo libro per denunciare il diffondersi di diffidenze ingiustificabili nei confronti della ricerca scientifica, delle sue applicazioni e soprattutto della farmacologia è quello dei vaccini, che oggi sono al centro di molte polemiche. E su questo tema interviene, per difendere i vaccini, Roberto Burioni, che è un medico virologo al San Raffaele di Milano e ha scritto Il vaccino non è un'opinione, pubblicato da Mondadori, 168 pagine, 16,50 €. Burioni parte da un gioco che ci invita a fare. Il mio libro dice, ci può piacere o non piacere, ma nessuno può discutere che il suo libro ha 168 pagine e pesa 240 grammi. Questi sono fatti, non opinioni che riguardano il suo libro. E lo stesso avviene per i vaccini, ci scrive l'autore. La bilancia, in questo caso il metodo scientifico, ci dice che sono sicuri e affidabili i vaccini e che proteggono i bambini e l'intera società da pericolosissime malattie. Troppe bugie sono diffuse attraverso internet, certe volte queste fanno ridere, alcune altre volte diventano veramente pericolose, come in questo caso, quello dei vaccini. E qui Burioni analizza i successi ottenuti grazie ai vaccini nel debellare tante malattie spesso terribili come il vaiolo e analizza le critiche rivolte ai vaccini per farci capire tutti gli errori possibili in questo campo. Anzi, in conclusione, ricapitola i 7 fatti, appunto, non opinioni, che ha cercato di dimostrare nel libro. I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci, i vaccini sono utili, i vaccini rinforzano il sistema immunitario, i vaccini rendono la nostra comunità più forte, i vaccini non causano l'autismo o altre gravi malattie, i vaccini non sono un complotto delle multinazionali del farmaco. E a proposito delle malattie neurodegenerative delle quali si occupa appunto Elena Cattaneo, una toccante testimonianza di queste malattie è il libro di Viola Balestra, che è il nom de plume di Agostina Ledda, che ha scritto Spremuta di mandarini, appunti in quattro colori, pubblicato da Marco Sabatelli Editori, 144 pagine, 15 €. Qui l'autrice ligure racconta con dolcezza e leggerezza il rapporto con la mamma malata di Alzheimer che la segue quotidianamente. La Balestra anzi confessa che con l'Alzheimer da 3 anni ormai è entrata in confidenza. Il rapporto naturalmente è molto difficile, ma capace di emozioni semplici ma allo stesso tempo indescrivibili, come quando la mamma, messa una sera a letto, saluta la figlia lucidamente come ai vecchi tempi con un buonanotte tesoro mio. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Questa è la cronaca dell'epica e immortale lotta sostenuta da un popolo per il proprio riscatto. L'impassibile occhio della macchina cinematografica ha fissato queste immagini perché il mondo civile sappia e mediti. Il 23 ottobre le scintille di libertà accesesi in Polonia infiammano la fiaccola della riscossa ungherese contro un lungo e durissimo selvaggio. a quei giovani con un moto che si propaga spontaneo e fulmineo nella grande metropoli, si affiancano migliaia e migliaia di operai, impiegati, professionisti, giovani e vecchi, persino dei bimbi. Questa testimonianza della RAI del 1956 ci introduce a un anniversario importante che cade proprio oggi, cioè il 60° anniversario dell'inizio della rivoluzione ungherese, che cadde appunto il 23 di ottobre di quell'anno, allora era un martedì. Fu un evento storico per tutta l'Europa che tenne col fiato sospeso praticamente tutto il mondo. L'Ungheria, come ricorderete, si ribellò in quei giorni ai sovietici, di cui erano diventati un paese vassallo. Gli ungheresi assaporarono la libertà, si affidarono a Imre Nagy, il leader che diventò presidente del Consiglio, finché i russi intervennero un paio di settimane dopo per porre fine tragicamente all'insurrezione tra il 4 e il 7 novembre. La repressione sovietica fu molto violenta. Lo stesso Nagy due anni dopo sarebbe stato impiccato e ancora più clamorose sarebbero state le reazioni anche nel mondo comunista, anche in Italia, dove molti militanti e intellettuali abbandonarono proprio per i fatti di Ungheria e l'appoggio che il Partito Comunista aveva dato a quell'invasione, l'invasione sovietica, abbandonarono il Partito Comunista. Un documento di grande interesse e intensità su quelle giornate sono le memorie del capo della polizia di Budapest, Sándor Kopassy, che ha scritto «Abbiamo 40 fucili, compagno colonnello», il romanzo della rivolta di Budapest nel 1956, riproposta di edizioni E.O., 422 pagine, 18 euro, e tradotto da Angela Trezza. Kopassy era stato un giovane ed eroico protagonista della resistenza antinazista, avrebbe fatto rapidamente carriera nello Stato socialista, a 32 anni diventò appunto questore di Budapest e dovette fare i conti con la rivolta, di cui fin dall'inizio colse la portata. In breve si raccolsero 200.000 persone che si precipitarono ad abbattere la statua di Stalin quasi sotto gli occhi dell'ambasciatore sovietico, che all'epoca era Yuri Andropov, che poi dopo molti anni sarebbe diventato uno degli ultimi segretari del PQS poco prima di Gorbaciov. In occasione di quella manifestazione fu un subalterno che chiese istruzioni a Kopassy ammettendo di essere pronto a sparare contro gli sorti, e di qua il titolo e la reazione del questore di allora, che scrive: era incredibile, sarebbe bastato un ordine ed era pronto a sparare sulla folla, cosa che poi naturalmente successe con la repressione sovietica. Kopassy finirà dunque con l'appoggiare la rivolta e naturalmente poi andrà sotto processo, accusato di ammutinamento. I russi cercheranno di farlo dissociare dagli insorti e da Nagy, e l'autore sarebbe uscito di prigione soltanto nel 1963 in seguito all'amnistia che volle Khrushchev, per poi finire in Canada, dove sarebbe morto nel 2001. Una ricostruzione altrettanto appassionante, ma da un punto di vista completamente diverso, è quello di Luigi Bolognini, che è un giornalista sportivo di Repubblica, che ha scritto La squadra spezzata, la grande Ungheria di Puskás e la rivoluzione del 1956, pubblicata da 66 & 2nd, 156 pagine, 17 euro. Protagonista del libro qui è Gabor, un ragazzino che all'inizio incontriamo nell'opera di volontariato che fanno tanti ungheresi per costruire il nuovo stadio di Budapest, che dovrà appunto ospitare le gesta del leggendario Puskas, e lo stadio Nep Stadion, che sarà poi teatro appunto per queste imprese calcistiche. Puskas è allora considerato il più grande giocatore del mondo e militava nella Honvé di Budapest. E qui seguiamo la maturazione dell'entusiasmo calcistico del ragazzo, che deve però fare i conti col consolidamento anche nel mondo del calcio del regime. La squadra colleziona grandi successi, in particolare il contributo di Puskas rende l'Ungheria una squadra quasi imbattibile. Nel 1954 addirittura arriva a battere l'Unione Sovietica e la Grande Inghilterra, finché arriva nel 1954 la doccia fredda, cioè la sconfitta per la Coppa del Mondo, che allora si chiamava ancora la Coppa Rimé. Ma la situazione si complica anche sul fronte politico. Diversi calciatori furono arrestati e degradati, e le partite diventarono sempre più occasione per manifestare la protesta contro i politici e contro il regime. La rivoluzione sarebbe stata spezzata anche nello sport. Molti calciatori della nazionale che si trovavano in tournée non sarebbero tornati in Ungheria, avrebbero partecipato a molte amichevoli per raggranellare i soldi necessari all'espatrio clandestino dei propri familiari. Una di queste partite si svolse anche a San Siro e il Puskas batté, grazie a una doppietta, il Milan 2-1. Per il Milan aveva segnato Lidl. Soltanto nel 92 Puskas poi sarebbe tornato in Ungheria accolto come un eroe nazionale. Colloca la rivolta d'Ungheria nel quadro della situazione dell'Europa comunista una giornalista e saggista americana, Ann Applebaum, che ha scritto La cortina di ferro, la disfatta dell'Europa dell'Est 1944-56, 638 pagine, 32 euro, tradotto da Massimo Parizzi. Questa è una densa ma scorrevole ricostruzione storica di una delle pagine certamente più inquietanti e drammatiche del dopoguerra, ossia la chiusura dei paesi sottoposti al controllo sovietico nei confronti del resto del mondo. L'espressione cortina di ferro, come ricorderete, era stata coniata da Churchill, che nel 1946, in un famoso discorso negli Stati Uniti, aveva osservato sgomento che da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea, disse Churchill, giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale, Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare la sfera sovietica. E qui troviamo la storia dell'affermazione del totalitarismo comunista, esaminata in tutte le sfaccettature, compresi gli sforzi per controllare anche le menti dei cittadini nei paesi, in quei paesi, fino all'ultimo drammatico episodio, appunto la rivoluzione ungherese del 56, e anche in questo libro si ricorda in particolare il ruolo di Kopacsi, che si era unito ai rivoluzionari. Insomma, si trattò di un episodio decisivo perché la rivoluzione ungherese contribuì a cambiare la visione internazionale dell'Unione Sovietica per sempre, specialmente nei partiti comunisti occidentali. Dopo il 56, nel Partito Comunista Francese sarebbero emerse divisioni, il Partito Comunista Italiano avrebbe rotto con Mosca e il Partito Comunista Britannico avrebbe perso due terzi dei suoi membri. Persino Jean-Paul Sartre nel novembre 56 attaccò l'URSS, anche se avrebbe conservato ancora a lungo un debole per il marxismo. E in particolare l'autrice ricorda che la Arendt, come la CIA, che Gebe, Khrushchev e Foster Dulles, aveva finito per convincersi che i regimi totalitari, una volta apertisi la strada nell'anima di una nazione, fossero quasi del tutto invincibili. Avevano tutti torto. Il 56 fu un anno fatale nella storia del mondo, non soltanto per i fatti di Ungheria, e qui ricollega quegli eventi a quell'anno uno storico italiano, Luciano Canfora, che ha scritto 1956, l'anno spartiacque, e pubblicato da Sellerio, 192 pagine, 13 euro. Altri due eventi fecero del 56 un anno di svolta, oltre naturalmente la rivoluzione ungherese, il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e la crisi di Suez, ricorderete Francia e Inghilterra che attaccarono l'Egitto che aveva nazionalizzato il canale di Suez, e quello fu praticamente l'ultimo episodio di affermazione del colonialismo. In questo senso, scrive Canfora, il 56 diventò uno spartiacque nella storia del comunismo e nella storia del colonialismo. E di Canfora ricordo un altro libro uscito pochi mesi fa, intitolato Tucidide, la menzogna, la colpa e l'esilio. È pubblicato dalla Terza, 154 pagine, 20 euro. Qui Canfora torna ai suoi prediletti studi sulla civiltà latina e greca e ricorda di Tucidide ovviamente l'opera, ma soprattutto il metodo, un contributo fondamentale perché, ci ricorda l'autore, Tucidide è il politico ateniese cui dobbiamo l'invenzione della storiografia quale tuttora la pratichiamo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.